Erano tempi speciali quelli lì, i più brutti che possono capitare a una generazione, anche se ora a riparlarne mi trema la voce della nostalgia, e non solo perché si aveva 20 anni. Adesso che è passato tanto tempo, che sono quasi vecchio e non mi piace più nulla, ho capito perché. Forse sopravvivere è meglio di vivere.